Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. La notte delle elezioni americane non ho seguito alcuna diretta televisiva, ma mentre dormivo, qui nel nord-ovest d'Italia, sentivo che la pioggia torrenziale cantava «Obama, Obama», mentre il vento sibilava «Bush go home» e un tuono imperioso tuonava «Change». Al mattino, la radio sveglia mi annuncia che Obama aveva stravinto. E vai. Il risveglio è immediato e il piumone viene scaraventato in fondo al letto coi piedi con un'insolita energia mattutina. Non so cosa farà quest'uomo dalle orecchie a sventola e un fascino incredibile. Non so se e come riuscirà a sollevare le sorti dell'America, ma una cosa è certa. C'era qualcosa di nuovo nell'aria la mattina del 4 novembre. Forse una speranza. E in questi tempi bui, scusate se è poco. Silvia. Egregio direttore, scrivo a lei e alla redazione di Radio 24 per cercare di rendere pubblico il mio malessere di cittadino italiano. Il cavalier Berlusconi, dal quale non mi sento rappresentato né nelle funzioni di governo né in quelle di rappresentanza all'estero, se n'è uscito con un paio di perle che, come ha detto il signor Veltroni in un'altra occasione, se fossero state dette da un altro pari ruolo, avrebbero causato effetti a catena. Ha dato degli imbecilli a coloro che non hanno apprezzato la sua battuta o gaffe sul prossimo presidente statunitense. Ha informato che a Palazzo Chigi sono disponibili i diplomi di laurea in coglione per coloro che dissentono dalla sua opinione. Io personalmente ne vorrei una copia nominativa, firmata dal cavalier Berlusconi, possibilmente in formato tessera. La potrei così tenere dentro il passaporto e esibirla ogni qualvolta mi troverò all'estero, per dare dimostrazione del fatto che io dissento da queste esternazioni e che non mi sento rappresentato da questo signore. Sa, direttore, sono stanco di sentirmi apertamente preso in giro dai colleghi esteri. Qualcuno addirittura nomina il signor Berlusconi e se ne esce con sonore risate anche nei compassati paesi del Nord Europa, ogni qualvolta mi reco a un incontro di lavoro. E le mie argomentazioni nel tentativo di scindere l'Italia dai nostri governanti si stanno esaurendo. D'altronde la maggioranza è stata votata. Che scusanti posso addurre? Le posso assicurare di non essere l'unico in questa situazione. Altri miei conoscenti, indipendentemente dall'orientamento politico di ciascuno, subiscono quotidianamente lo stesso trattamento. Paolo, Padova. Caro direttore, immagini se la sinistra, anziché stracciarsi le vesti per le simpatiche battute del presidente, che sintetizzano il pensiero positivo e benevolo per un uomo di colore che finalmente, grazie alla democrazia americana, realizza il sogno degli umili della terra e fa ben sperare per il futuro dell'umanità, se la sinistra, dicevo, anziché perdere tempo come fanno molti insegnanti, molti giudici, troppi italiani, cominciasse a incalzare la maggioranza con istanze, come riduzione della corte di Napolitano, che conta oltre 1000 dipendenti, riduzione degli stipendi di Camera, Senato e annessi, reale dimagrimento dei ministeri e degli apparati, puntuale controllo della produttività in sanità, istruzione, polizia, eccetera. Se gli istituzionali di facciata, tipo Rutelli, Franceschini, Veltroni, Di Pietro e compagnia cantante, scendessero finalmente dalle nuvole e tornassero una buona volta tra i comuni mortali, degnandosi di condividerne i problemi. Allora sì, bepi. Cara Radio 24, sono due le lezioni che a mio parere sono giunte in questi ultimissimi giorni da oltreoceano. La prima è quella dell'efficienza. Nel giro di un paio d'ore è stato dichiarato ufficialmente il nome del vincitore, mentre nel bel paese occorrono dalle 10 alle 18 ore. La seconda lezione è stata quella dello stile. Qui in Italia e in campagna elettorale, i due maggiori contendenti si sbeffeggiano l'un l'altro, si guardano in cagnesco. Men che mai capita che si stringano la mano dopo un dibattito pubblico. Dopo le elezioni, il perdente accusa l'avversario e il suo governo di ogni sorta di responsabilità per quello che non gira nel modo giusto e per la crisi che attanaglia le famiglie, l'economia, eccetera. E questo perdura a lungo, per mesi e mesi. Ma che dico, fino alla campagna elettorale successiva. Beghe da pianerottolo, Negli Stati Uniti il candidato perdente si congratula subito con il vincitore, ammette la propria sconfitta e si mette pure a sua disposizione per collaborare al meglio per vincere le sfide del paese. Che differenza! Dio benedica l'America. Angelo da Genova. La spropositata reazione della maggioranza dei media alla spiritosa, ma non irriverente, battuta di Berlusconi sul neopresidente Obama, da lui definito giovane, bello e abbronzato, ci fa capire quanto sia grande la strumentalizzazione di ogni cosa in politica. I seriosi chierici del politicamente corretto stanno quindi insegnando al premier italiano che cosa è lecito dire o non dire. A loro, naturalmente, essendo i migliori, è lecito dire ogni cosa e sicuramente le loro battute e quelle dei comici che fanno loro da spalla sono sempre le più intelligenti. Ma al di là della polemica, mi sembra di vedere in questi novelli inquisitori una mancanza di spirito davvero formidabile. Loro possono dire, mentendo spudoratamente per questioni di bottega, che quando Berlusconi dice che Obama è abbronzato si comporta da razzista, ed è un razzista. Così facendo si comportano in modo peggiore di colui che vogliono combattere e abbattere. Così, volendo togliere la pagliuzza dall'occhio del loro avversario, distolgono lo sguardo dalla trave che è nel loro. Claudio. Massimo D'Alema ha dichiarato che in Italia il figlio di un immigrato keniota sarebbe ancora a fare la fila per il permesso di soggiorno. In America, invece, diventa presidente. Trovo incredibile che D'Alema possa vedere delle analogie fra i nostri immigrati stranieri e Barack Obama. Gli immigrati stranieri che vivono in Italia sono esattamente come sono stati i nostri connazionali che si imbarcarono a Genova 100 anni fa, diretti verso le Americhe o l'Australia in terza classe. L'Italia non è un paese che offre delle opportunità ai propri cittadini, bensì un paese che costringe gli italiani che hanno dei sogni e che sono coraggiosi o particolarmente bravi ad emigrare. Barack non è il figlio di un immigrato, ma un classico americano di razza parzialmente nera, così come ve ne sono altre decine di milioni in America, ed è stato votato perché lo ha chiesto e perché i suoi connazionali lo hanno valutato persona capace di governare la loro nazione. Ma forse D'Alema scherzava, come Berlusconi. Ascoltando Berlusconi ho riso a crepapelle, per gli americani è il classico italiano, purtroppo. Leggendo le dichiarazioni di D'Alema, invece, sono sbigottita. Sarebbe interessante poter leggere nei prossimi giorni i commenti dei giornalisti americani alle due dichiarazioni, ma credo proprio che le possibilità saranno poche. Cordialità, Anna, Genova. Caro direttore, mi chiamo Francesco e sono genitore di una dolce bambina di 4 anni. Le scrivo perché sono preoccupato per il futuro di mia figlia, in merito a un fenomeno che si sta divulgando, forse senza controllo. Mi è capitato più di una volta di sentire genitori che adoperano psicofarmaci per occuparsi di problemi di comportamento, considerati disturbi, dei propri figli. Il fatto eclatante è che i disturbi sono manifestazioni normali in un bambino o in un adolescente. Scarsa concentrazione nello studio e troppa vivacità sono diventati i mali da curare con una pillola. Questi mali mi hanno accompagnato in modo marcato per anni e ora sono un imprenditore di 30 anni, sposato, padre e che conduce una vita serena. Metà dei miei compagni di scuola soffrivano dei miei stessi mali e sono, adesso, persone nella norma. Ho visto l'abuso dei farmaci su mia nonna e altre persone anziane. Quasi tutte le sere si possono vedere, alla TV, le truffe a spese della società nell'ambito della sanità. Si può pensare, queste cose succedono tutti i giorni in svariati campi, ma quando si tratta di affari di milioni di euro a spese della salute dei bambini, questo, in quanto cittadino ed essere umano, non mi va giù. Si può chiedere il parere dei lettori e degli ascoltatori in merito a questa dubbia teoria dei disturbi mentali in bambini considerati, una volta, con l'argento vivo addosso. Se si leggono le controindicazioni dei farmaci, possono tremare le gambe a un genitore, il quale, spesso, fidandosi della prescrizione, non legge attentamente gli effetti negativi di questi potenti medicinali. Per non parlare del fatto che nostro figlio può essere facilmente considerato un malato mentale. È un argomento che a me sta a cuore molto, dato che ho scoperto che alcuni genitori non sapevano che i propri figli venissero etichettati come affetti da svariati disturbi a scuola, a loro insaputa. Caro direttore, caro ascoltatore, vi dico che d'ora in poi siamo costretti a controllare i nostri figli anche a scuola, l'ultimo ambiente che ritenevamo sicuro. Ambiente trasformato in un vivaio di potenziali pazienti. Francesco. Caro Francesco, lei solleva un problema molto importante, un problema che in fondo è alla base della nostra umanità. Come giudicare i bambini e come intervenire di fronte alle loro intemperanze? Le devo dire che penso che una delle malattie del mondo contemporaneo sia proprio il ricorso agli psicofarmaci e comunque l'abuso di farmaci di ogni ordine e tipo. Quasi che le persone di fronte ai problemi personali e sociali cerchino di rifugiarsi nella moderna alchimia delle farmacie per cambiare gli stessi caratteri delle persone. Sinceramente, penso che nel 99% dei casi l'indisciplina dei bambini non dipenda dai bambini stessi, ma da un'alterazione, da un disagio nei rapporti con gli adulti. Il più delle volte si è di fronte a tensioni derivanti da quello che gli antichi semplicemente chiamavano la mancanza d'affetto. Certo, non è facile, anzi quasi impossibile ricreare situazioni di normalità familiare quando i legami si spezzano e l'amore lascia il posto a tensioni e insofferenze. Ma in questi casi i rimedi rischiano di essere ben peggiori dei mali. I psicofarmaci ai bambini sono una dichiarazione di fallimento degli adulti. Sono la strada aperta, poi, alla droga, all'alcol, in una società che sembra freneticamente protesa a dimenticare tutto, perdendo così il valore profondo della propria umanità. Caro direttore, il governo sta giocando col fuoco nei confronti della famiglia, che si sente usata più che ascoltata e accompagnata, secondo un'efficace espressione del vescovo Alessandro Maggiolini. Usata perché non vengono mantenuti gli impegni assunti dal governo prima delle elezioni, impegni che riguardavano il quoziente familiare e il finanziamento delle scuole paritarie. Il quoziente familiare viene rinviato a fine legislatura. Per 3 anni le famiglie devono arrangiarsi. Sul finanziamento delle scuole paritarie, di cui erano state fatte anche le cifre non più tardi di fine settembre, tutto tace. Per il quoziente familiare, la scusa è la mancanza di fondi. Per le scuole paritarie il pretesto sarà identico. Questo mentre in molte scuole statali si incarica l'ASL di insegnare tecnica sessuale, materia a dir poco inutile, per non dire dannosa per degli adolescenti, finanziata dallo Stato, cioè dai contributi delle famiglie stesse. Bruno, Milano. Buongiorno, sono la mamma di un bambino di 10 anni che frequenta la quinta elementare nella scuola di quartiere. Vi scrivo per manifestare il mio disgusto. Racconto l'episodio che ha scatenato i miei sentimenti. Nelle ore di ricreazione, che peraltro sembra siano numerose, gli alunni vengono condotti nel cortile e improvvisano i loro giochi. E allora corrono, si spingono, vagano come schegge impazzite. Il tutto senza la benché minima sorveglianza. Spesso i bimbi si feriscono e le insegnanti neppure verificano il danno subito ed eventualmente si preoccupano di disinfettare le ferite. Allora non capisco la polemica nei confronti delle riforme che di volta in volta i governi cercano di applicare perché evidentemente capiscono l'urgenza di ristrutturare la fatiscenza che si è accumulata negli anni. Ma allo stesso tempo mi chiedo, sarà utile fare delle riforme se si è persa completamente di vista la vera componente importante che dovrebbe fare della scuola un luogo tranquillo e sicuro in cui mandare i nostri bambini, e cioè la disciplina? Saluti, una mamma preoccupata. Queste erano alcune lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.